Buonasera a tutte e a tutti dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E questa è la quinta ora. Storie di donne che resistono alle discriminazioni. Forse oggi storie di discriminazioni che si mascherano di presunte teorie scientifiche ai danni delle donne. Ciao a tutte da anche da Five e oggi si parla di PAS. Cos'è la PAS, Fra? La PAS sta per sindrome da alienazione parentale ed è una ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori che sono coinvolti in situazioni di separazione tra genitori, separazioni cosiddetta conflittuale. È quindi una teoria psicologica che sta mietendo molteplici vittime sul terreno delle richieste di affidamento che fanno le donne italiane e diciamo che per prima cosa spieghiamo un po' in che cosa consiste questa presunta teoria e poi spiegheremo anche che non è per niente riconosciuta, diciamo, scientificamente dalle associazioni e anche dal DSM, dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. E diciamo che praticamente è una ipotetica e controversa dinamica psicologica frutto di una supposta programmazione dei figli da parte di un genitore patologico che l'inventore della PAS chiama genitore alienante. È una sorta di lavaggio del cervello che porterebbe i figli a voler perdere ogni contatto con l'altro genitore, quello che viene definito, secondo sempre questo teorico che l'ha inventata, un genitore alienato, e porterebbe appunto i figli a esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo appunto verso questo genitore. È una sindrome nata nel 1900, messa a punto nel 1984 da un tale dottor Richard Gardner. Ma non mi convince, esiste o non esiste questa PAS? Innanzitutto c'è da dire una cosa, la PAS non esiste. Non esiste innanzitutto perché è stata definita una sindrome, quindi comunque un qualcosa che presenta tutta una serie di sintomi che poi analizzeremo in seguito. È una sintome teorizzata da questo Gardner nell'85 che nel tempo e soprattutto attualmente ha visto una potente e pericolosa rinascita. Innanzitutto, chi è Gardner? Gardner, ma in realtà non lo sappiamo neanche noi chi è, nel senso che è morto suicida a 73 anni e sul giornale, sul New York Times, fu pubblicato un necrologio dove si diceva che fosse un professore della Columbia University. Poi in realtà ci fu una smentita perché appunto risultò che questo Gardner alla Columbia University non era mai stato professore di psichiatria infantile, mentre era stato soltanto un volontario non retribuito. Ci sono poi tutta una serie di sospetti di pedofilia o comunque di sue dichiarazioni assolutamente in linea con massimi rappresentanti della pedofilia, e addirittura lui è arrivato a utilizzare alcune frasi come il pedofilo è sfortunato a vivere in un luogo e un'epoca storica che condannano la sua inclinazione. Ciò nonostante, questa non è una ragione sufficiente per autocolpevolizzarsi, e poi infatti vedremo che la PAS proprio si riversa anche in situazioni comunque di abuso sessuale e lì ancor più la pericolosità di questa sindrome totalmente inventata e infondata scientificamente ha trovato ancor di più piede. Ma ciò che è ancor più grave, altre frasi dette da Gardner, queste ce le siamo proprio andate a cercare. Sì, dovevamo cercare di capire chi era chi era costui. E lui addirittura ha detto che tra le sue varie teorie ha anche detto che l'allontanamento di un genitore pedofilo da casa dovrebbe essere attuata solo quando sia fallito ogni tentativo di trattamento della pedofilia e del reinserimento in famiglia. Addirittura lui suggerisce che più che la colpevolizzazione dell'uomo pedofilo, quindi eventualmente del marito pedofilo, la moglie dovrebbe tentare di essere più sessualmente recettiva verso lui. Quindi la sua accresciuta sessualità potrebbe attenuare il desiderio del marito di cercare gratificazione sessuale tramite la figlia. Qui diciamo già i primi aspetti inquietanti, sì. Sì. Voglio precisare che quello che appunto diceva Five è proprio virgolettato, quindi sono sue frasi proprio citate testualmente dai suoi libri. Quindi lui si è inventato questa bella teoria, bella per modo di dire, e ha parlato anche di alcuni sintomi. Cioè, per parlare di sindrome d'alienazione parentale, il bambino, il minore, dovrebbe avere 8 sintomi. No, allora facciamo così, cominciamo a elencarli, dai, vediamoli ad uno questi sintomi. Allora, il primo sintomo è quello della campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso quello alienato. In una situazione normale, dice Gardner, ciascun genitore non permette che il bambino esibisca mancanza di rispetto e diffami l'altro. Nella PAS, invece, il genitore alienante non mette in discussione tale mancanza di rispetto, ma può addirittura arrivare a incoraggiarla. Quindi questo è il primo sintomo. Vediamo il secondo. Il secondo è la razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino, dice sempre lui, spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato, che lo ricordiamo è quello rifiutato, con motivazioni illogiche, insensate o anche solamente superficiali. E cita addirittura degli esempi, cioè se il bambino dice: alza sempre la voce quando mi dice di lavarmi i denti, oppure mi dice sempre non interrompere, significa che questo bambino c'ha la PAS. Ho capito, quindi che è la mamma che glielo suggerisce. Sì, secondo questa teoria sì. Andiamo avanti. Un terzo sintomo, la mancanza di ambivalenza, per la quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come completamente negativo, laddove l'altro è visto come completamente positivo. Quarto sintomo, il fenomeno del pensatore indipendente, che indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa ragionare senza influenzare e di averle elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione, senza input del genitore alienante. Cioè, se un bambino ti dice guarda che io penso con la mia testa, significa che è invece... Potrebbe essere stato consigliato dalla madre. Il quinto sintomo è l'appoggio automatico al genitore alienante e una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, qualsiasi genere di conflitto venga a crearsi sul momento. Quindi di qualsiasi conflitto si stia parlando, la presa di posizione a favore del genitore, quello cosiddetto alienante, viene appoggiata automaticamente dal bambino. Questo è il quinto sintomo, ne abbiamo ancora 3, mi raccomando. Questo era il quinto e adesso il sesto. L'assenza di senso di colpa, per il quale tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore alienato trovano giustificazione nel fatto che se le merita questo genitore, e quindi che fosse una sorta di giusta punizione. Il settimo sintomo è quello degli scenari presi a prestito, ovvero delle affermazioni che non possono ragionevolmente provenire direttamente dal bambino, quali ad esempio l'uso di frasi, parole, espressioni o la citazione di situazioni normalmente non patrimonio di un bambino di quell'età. Poi qua ci devono spiegare quale età, perché i bambini sono molto diversi, dipende appunto dall'età che hanno, per descrivere le colpe del genitore escluso. E poi l'ottavo e ultimo, finalmente, sintomo è questo dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato, che coinvolge nell'alienazione la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive del genitore rifiutato. Quindi questi sono gli 8 sintomi che dovrebbero caratterizzare appunto il fatto che un bambino sia affetto dalla sindrome da alienazione parentale. Sì, sostanzialmente sono tutta una serie di sintomi assolutamente generici, assolutamente sovrapponibili ad altre situazioni che invece sono state validate scientificamente, per esempio la violenza assistita, che è quella violenza a cui il bambino assiste, per esempio sulla figura, su una delle figure di riferimento, cioè quando il padre picchia la madre e il bambino assiste, e sono assolutamente sovrapponibili a i sintomi di eventualmente un abuso sessuale, dove anche qui la letteratura scientifica è sicuramente maggiormente validata e certa, ma soprattutto sono sintomi che quasi colpiscono il bambino in un pregiudizio, cioè sostanzialmente questo al bambino viene negata soggettività. E direi che Piaget si rivolterebbe nella tomba, nel senso, innanzitutto non si individuano delle fasce d'età, si parla genericamente di questi sintomi che, ripeto, sono completamente infondati e sovrapponibili ad altre situazioni. In più si nega completamente soggettività critica al bambino, quindi anche questo apre scenari inquietanti. Per esempio, facciamo un esempio: il fatto che il bambino non dica le ragioni del suo disagio nei confronti del genitore può essere dettato da qualche altra cosa, può essere dettato per esempio dal fatto che ha paura di una sua reazione, può essere dettato dal fatto che ciò che gli ha fatto il genitore, quello cosiddetto rifiutato, sia di talmente tanto grave e che quindi il bambino non ha il coraggio o la possibilità di parlarne, c'è la possibilità, la paura di non essere creduto. Insomma, ci sono un sacco di fattori che potrebbero spiegare il motivo per il quale un bambino non dice le ragioni vere del suo allontanamento da un genitore. Certo, così come per esempio gli scenari presi a prestito, questo sintomo singolarissimo, cioè appunto affermazioni che il bambino può dire perché ricalcano affermazioni della madre, è sovrapponibile a una situazione di violenza assistita, dove il bambino riferisce, esattamente come la madre, situazioni di violenza vissute. Quindi anche qui una pericolosissima ambivalenza. Oppure il fatto di, com'è che diceva, l'appoggio automatico al genitore alienante, cioè in molte situazioni la madre costituisce la principale figura di riferimento per il ruolo che svolge una madre nella crescita del bambino, per la presenza, per tutta una serie di elementi che fanno sì che il bambino in linea generale, ma può essere anche il padre, costruisca e abbia una figura di riferimento principale. Questo non vuol dire negare l'importanza dell'altra figura, ma un sintomo del genere riferito alla PAS può essere molto molto pericoloso. Abbiamo poi tutta una serie di conseguenze. Sulle conseguenze, ragazzi, credetemi, c'è veramente da ridere o forse piangere. Questo lo ricordiamo, stiamo sempre parlando della sindrome di alienazione parentale, stiamo spiegando che cos'è o che cosa dovrebbe essere se esistesse. Abbiamo spiegato i sintomi, adesso spieghiamo quali potrebbero, secondo questa genialità del dottor Gardner, quali potrebbero essere le conseguenze, cioè le ripercussioni che questa sindrome ha nei confronti del futuro del bambino. Prego, perché queste sono molto divertenti in realtà. Lui dice, Gardner dice, le conseguenze sono gravi processi psicopatologici quali esame di realtà alterato, narcisismo, indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia, mancanza di rispetto per l'autorità. Su questo, Francesca, che diciamo? Mancanza di rispetto. Beh, che è un po' fascista, insomma. Estesa anche a figure non genitoriali, paranoia. Attenzione, paranoia e, dulcis in fundo, psicopatologie legate all'identità di genere. Questa me la devi proprio spiegare, guarda. Sostanzialmente se mi viene screditato il ruolo di padre, c'è la possibilità che io sviluppi una patologia o psicopatologia che mi potrebbe addirittura portare un disturbo dell'identità di genere. Da qui altro scenario di legare comunque la psicopatologia al disturbo dell'identità di genere. Io direi che siamo assolutamente stanche, quindi mandiamo la musica. Sì, a questo punto mandiamo la musica. There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on. When you're gone prova. Allora, ritorniamo in studio e vabbè, mi dicono che sempre metto la stessa canzone, però a me piace tanto e quindi la potete sopportare per una volta al mese che veniamo qui in radio. Allora, si parlava di pass o non pass, direi io non pass. È un abuso psicologico a carico del bambino volto a denigrare la figura di un altro genitore, inventata da questo fantomatico dottor Gardner. È comunque una sindrome, ricordiamolo, che non ha ricevuto alcuna validità scientifica. La comunità internazionale è scettica proprio sui presupposti scientifici di questa sindrome. Tra l'altro, una sindrome presuppone un insieme di sintomi ben delineati e ben caratterizzati. Questi sintomi che poco prima abbiamo elencato ci dimostrano l'assoluta genericità della teorizzazione di questa sindrome. C'è anche da dire, come giustamente osservava una amica psicologa, che noi ci siamo portate una consulente, perché noi non siamo psicologhe, facciamo altro nella vita, ci siamo portate una consulente, le abbiamo chiesto, però lei si vergogna di parlare al microfono. Si vergogna, però dice: guardate ragazzi, io vi posso dire una cosa, no? Proprio vi dico che da una parte questi sintomi presuppongono che il bambino, proprio un'oggettivizzazione del bambino, cioè al bambino non viene riconosciuta soggettività critica. Dall'altra invece c'è proprio l'elencazione di alcuni sintomi che per la loro specificità presuppongono un elevato grado di capacità cognitiva, no? Mi aiuti, Fra, spiegalo meglio, va. Ecco il nostro consulente. Vi odio entrambe che mi avete messo in mezzo a questa cosa, a trabocchetto. Beh, diciamo che quello che stanno dicendo loro è giusto, cioè questa sintomatica fantomatica sindrome PASS di questo fantomatico dottor Gardner è totalmente assurda, tant'è che appunto, come dicevano loro, l'American Psychological Association non l'ha riconosciuta scientificamente, dando insomma un segnale forte dell'inconsistenza scientifica di questa teoria. Il primo elemento sicuramente che si può riscontrare è appunto che questo tal Gardner, se da una parte ci descrive un bambino che è assolutamente schermo bianco, totalmente manipolabile, quindi privo di qualunque soggettività critica. E poi scusami se ti interrompo, ma potrebbe essere un bambino di 2 anni come di 14, perché non è che specifica una fascia di età e tutte le varie modalità che può avere l'atteggiamento di un bambino a seconda di una fascia d'età. Certo, qualunque teoria psicologica, voglio dire, ma anche le più recondite dagli anni 60 ovviamente postulano una serie di fasi di sviluppo del bambino, da Piaget a Vygotsky, e soprattutto parlano di un bambino che è un bambino con una propria capacità, una propria soggettività, una propria capacità critica che si sviluppa, cioè, fin dai primi mesi, dai primissimi anni della vita. Il bambino sviluppa ha delle funzioni cognitive importanti, superiori, che si sviluppano e che ovviamente poi, a seconda delle fasi che corrispondono appunto a dei periodi di età, si vanno sviluppando e vanno aumentando, no? Si vanno raffinando. Quindi, da una parte, questo Gardner descrive questo bambino quindi totalmente privo di queste facoltà critiche e cognitive superiori, dall'altra però indica anche dei sintomi poi che invece presuppongono la presenza di queste funzioni superiori. Ad esempio, quando parla dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata, presuppone appunto dei meccanismi anche di generalizzazione, no? E quindi di mettere insieme, accomunare al genitore cosiddetto alienato, secondo Gardner, anche le persone a lui vicine, no? Quindi la capacità anche di individuare i familiari e di operare delle operazioni di generalizzazione. Sì, poi udite, il genitore alienante chi è? La madre. Cioè, secondo Gardner, sì, da non, qui è un caso, non è un caso che stiamo parlando sempre di madri e di padri, perché appunto sì, perché di fatto Gardner individua nel corso dei suoi studi la madre è il programmatore più probabile e che quindi il padre è il genitore alienato, cioè la vittima della famosa campagna di denigrazione della madre. Addirittura, perché mi sono studiato oggi, sin dai primi anni 80, lui, quando ha cominciato a osservare questo disturbo, presunto disturbo, ha rilevato che addirittura nell'85-90% dei casi nei quali è stato coinvolto, non si capisce da chi, tra l'altro non era neanche un professore, la madre è il genitore alienante mentre il padre è l'alienato. Lui poi ha condotto un'indagine informale, e qui attenzione ai dati, tra circa 50 professionisti di salute mentale e legali che lui sapeva essere a conoscenza della PAS e quindi avere a che fare con famiglie di questo tipo, queste sono sempre parole sue, rivolgendo a loro questa semplice domanda: qual è la proporzione delle madri rispetto ai padri che sono validi programmatori della PAS? E dice che le risposte oscillavano tra un 60 e un 90% dei casi in cui le madri erano gli allenatori primari. Quindi questa è una teoria che non esiste, ma è una teoria sessista. Molto sessista. E a questo punto però mi sorge una domanda spontanea. Se questa PAS non esiste e non è valida scientificamente perché lo dicono tutti, è una teoria sessista perché appunto dà per scontato che siano le madri ad essere programmatori e i padri ad esserne le vittime, ma perché ne stiamo parlando? Te lo dico io perché la PAS, nonostante non sia né inclusa nel DSM, il manuale diagnostico e statistico dell'Associazione Psichiatria Americana, è invece contemplata nelle linee guida in tema di abuso sui minori e quindi dalla Società Italiana, tutta italiana, di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo perché invece nella maggior parte degli altri paesi la PAS è stato definitivamente assodato che non esiste, è inammissibile da un punto di vista giudiziario, mentre qua in Italia, come al solito, siamo di fronte a una addirittura c'è un disegno di legge che per fortuna giace in Parlamento dal settembre scorso in commissione al Senato, e che appunto ha dato vita a tutta una serie di legittime reazioni da parte del mondo dell'associazionismo, che ha invece cercato di introdurre la PAS, quindi dandole anche un riconoscimento giuridico nei casi di conflittualità. E da qui si apre un altro scenario, e quindi cioè, la PAS sta prendendo piede nei tribunali e fa capolino diciamo sempre più spesso anche rispetto alle richieste di affidamento. Sì, diciamo che molto brevemente ci sono la PAS è strettamente correlata appunto a questo disegno di legge 957 questo disegno ovviamente mette le mani già sulla legge 54 sull'affido condiviso, che è già legge assolutamente incostituzionale, perché comunque è gravemente lesivo delle donne e dei bambini, non prende in considerazione la violenza domestica e intrafamiliare come causa di esclusione dell'affido, ma anzi obbliga il giudice a percorrere come via primaria e assoluta l'affidamento condiviso. E questo disegno di legge è l'ennesimo tentativo della destra, ma anche di alcune associazioni fortemente che stanno facendo lobby rispetto a questo, prima di tutte l'Associazione dei Padri Separati, che ha appunto cercato attraverso questo disegno di legge di non soltanto dare riconoscimento alla PAS, ma anche di ulteriormente andare a modificare e mettere mano all'affidamento condiviso, alla legge sull'affidamento condiviso, che già ha non pochi problemi da risolvere, per spingere ancora di più le istanze dei padri separati. Molto molto brevemente, questo disegno di legge 957 introduce tutta una serie di concetti, assolutamente di principi estremamente criticabili. Il primo è il concetto di pariteticità. Attenzione Franca, perché questo è un concetto assolutamente importante. Aspetta che mo mi concentro. Pariteticità. Okay. Sostanzialmente il criterio di pariteticità serve a modulare il rapporto dei genitori con i propri figli. Quindi sostanzialmente io padre devo stare con te lo stesso tempo che sta tua madre e viceversa. Io padre devo fare le stesse cose ed anche tu. Questo è un concetto che non ha niente a che vedere con un progetto educativo condiviso per il minore, ma introduce un criterio quantitativo. Lo stesso tempo che sei tu, ci devo stare io. E quindi non prende in considerazione tutta una serie di cose. Ma cosa ancora più pericolosa, il problema... cioè la PAS diventa pericolosa nei casi di violenza familiare, di violenza domestica. Questo perché c'è tutto un problema strettamente connesso all'esercizio del diritto di visita del padre maltrattante, alla gestione quotidiana del bambino, al suo collocamento, se presso la madre o presso il padre. Insomma, introduce abbandona completamente quello che è il principio fondamentale, cioè l'interesse del minore, e introduce un criterio quantitativo, cioè il concetto di pariteticità. Ma non fa solo questo. Elimina completamente dalla valutazione il tenore dei rapporti tra i coniugi. Sostanzialmente il tenore dei rapporti tra i coniugi non rileva ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso. Che vuol dire? Vuol dire... vediamo se ho capito. Sostanzialmente i rapporti tra i genitori per modulare e regolamentare l'affido condiviso non contano. Quindi, ritorniamo, le situazioni di violenza domestica, come fa il giudice a non considerare i rapporti tra i genitori? Quindi abbiamo una applicazione meccanica dell'affidamento condiviso che non prende in considerazione la varietà e le differenze tra le varie situazioni tra virgolette di normalità piuttosto che situazioni di violenza domestica o comunque abuso sessuale sui minori. C'è tutta una serie di situazioni che invece meritavano un trattamento differente. Tra l'altro l'unica norma intelligente che si può fare è quella di escludere l'affidamento condiviso nei casi di violenza fisica, verbale, assistita, sessuale. Perché lo ricordiamo, anche quando la donna riesce a separarsi e a mettere una distanza con l'uomo violento, il problema del fatto di avere in comune un figlio è un qualcosa di molto pesante per la donna, nel senso che l'uomo violento cerca di strumentalizzare la presenza del figlio allo scopo di danneggiare, di denigrare, di annientare la madre. Quindi diciamo con la separazione non finiscono gli incubi delle donne vittime di violenza, soprattutto se nei tribunali appunto prende piede questa teoria, questa modalità. Ricordiamo infatti che questa teoria dovrebbe riguardare le situazioni di conflittualità, però molto spesso si parla di PAS anche nei casi di violenza. E quindi il fatto è già l'estrema difficoltà che si ha nei tribunali, nei servizi sociali, anche proprio rispetto all'opinione pubblica, ad acquisire come dato certo un collegamento diretto che c'è esistente tra violenza subita dalle madri e le gravi conseguenze di tipo psicofisico che ha questa situazione sui figli, sia a breve che a lungo termine, nelle forme della violenza assistita, quindi della violenza indiretta, ma anche nei confronti della violenza diretta. Quindi il rifiuto, per esempio, di un bambino ad incontrare il padre maltrattante o abusante viene spesso interpretato dai giudici o dai servizi sociali come un condizionamento psicologico indotto dalla madre. E questa è un'assurdità, ma soprattutto porta alla luce un problema fondamentale. Il problema principale è che la violenza di genere spesso viene confusa con la conflittualità coniugale, mentre sono due cose distinte e separate. Tu lo sai, Fra, io su questo sono avvelenata. Lo dobbiamo dire, cioè lo voglio dire. La conflittualità non ha nulla a che vedere con la violenza, perché la conflittualità presuppone una relazione pari tra le persone, mentre la violenza è una relazione di squilibrio, di potere. E quindi questo mancato riconoscimento del confine tra violenza di genere e conflittualità coniugale porta e determina la stigmatizzazione della donna che denuncia la violenza subita e decide di sottrarre sé e i propri figli alla situazione di violenza. Perché? Perché ci si aspetta che la donna aderisca alla logica della composizione familiare e quindi si metta al tavolo col proprio aggressore e con grandissima tranquillità riesca a regolamentare un esercizio condiviso della gestione del figlio. Questa cosa, tra l'altro, mi fa venire in mente una vecchia tendenza, purtroppo, dei nostri tribunali, che è appunto quella di misconoscere il fenomeno della violenza di genere. E ad esempio, no, mi viene in mente quando le donne che denunciavano con fatica e coraggio la violenza subita venivano etichettate come vittime, come donne che avevano una sindrome sadomasochista, no? Sì. E anche lì si faceva ricorso poi a teorie psicologiche, anzi psichiatriche obsolete, no? Che assolutamente decontestualizzavano la situazione e che servivano appunto anche lì a affermare, no? Sì, perché poi qualsiasi tentativo da parte della donna vittima di violenza di far emergere il suo vissuto di violenza che ha caratterizzato tutta la sua vita coniugale viene interpretato dalle difese dei padri, con una strumentalizzazione anche da parte degli avvocati, come una finzione, cioè una inscenata dalla donna per avere dei vantaggi in sede di separazione e quindi avere un affidamento esclusivo. Certo. Sì, per esempio Patrizia Romito, che è una psicologa dell'Università di Trieste, dice che proprio che la PAS è l'evoluzione moderna dello stereotipo atavico che dice che le donne si inventano le cose e che esagerano appunto quando parlano di certe situazioni. Ecco perché diciamo che è molto pericolosa, sia perché sta prendendo piede nei nostri tribunali, ma anche questo disegno di legge che per fortuna è ancora diciamo fermo, da settembre del 2012 sta in commissione, se non sbaglio prevede pure una obbligatorietà della mediazione familiare. Sì, altro problema, cioè il fatto che comunque una donna che vuole accennare una procedura di separazione deve sottoporsi all'obbligatorietà della mediazione, cioè che la mediazione nei casi di violenza intrafamiliare non è praticabile, cioè è impossibile, perché non c'è sostanzialmente nulla da mediare. E invece la mediazione molto spesso nella pratica viene proposta come percorso dai servizi sociali anche nelle situazioni di violenza, perché si tende a parlare di conflittualità, perché non si vuole riconoscere la violenza, e quindi la donna viene anche costretta a seguire questi percorsi di mediazione, che tra l'altro vengono strumentalizzati anche successivamente, se per esempio, come accade nella maggioranza dei casi, il percorso di mediazione fallisce perché non doveva essere proprio iniziato, quindi la maggior parte dei percorsi poi non vengono portati a compimento, si crea comunque tutta una serie della documentazione, delle relazioni da parte del mediatore, che viene poi strumentalizzata dai partner violenti, sia in sede penale, qualora la donna abbia fatto una denuncia, quindi si apra un processo contro di lui, ma anche in sede civile. Perché? Perché è un altro dato da rilevare, motivo per cui viene spesso confusa la conflittualità con la violenza, è che l'uomo violento è un manipolatore. Quindi l'uomo violento, anche nel momento in cui viene sottoposto a una valutazione, per esempio gli vengono imposti degli incontri protetti, sarà un uomo che tenderà a presentarsi come un ottimo papà, a venire agli incontri protetti con i regali, a tendere a colludere con l'assistente sociale, che ovviamente in una situazione di, da una parte, incompetenza, da una parte mancata conoscenza proprio del fenomeno della violenza, si lascia, diciamo, convincere dal padre, che è fortemente manipolatore, che effettivamente lui è vittima di un condizionamento che la madre ha fatto sui suoi figli. E quindi da qui si aprono scenari terrificanti, come appunto il caso, poi parecchi casi sia a Salerno, nella cronaca di cui ci hanno parlato i giornali, che hanno portato appunto a pronunce da parte dei tribunali. Sì, perché io pure ho studiato e mi sono letti degli articoli, per esempio c'è questo articolo di Luisa Betti del Manifesto, che si è occupata insomma per tanto tempo di PAS, e praticamente ha raccontato la storia di questi due bambini di 7-8 anni prelevati dai servizi sociali per essere collocati in una casa famiglia di Salerno in quanto appunto affetti da PAS. In questo caso il curatore dei minori, quindi appunto neanche la madre ma il curatore dei minori, aveva richiesto la sospensione della potestà del padre per molestie sessuali che sarebbero emerse dalla testimonianza dei piccoli durante il colloquio con uno psicologo. E su questa situazione il tribunale si è espresso con la decadenza della potestà del genitore abusante, quindi del padre, ma ha tolto la potestà anche a quello accudente, cioè la madre, dicendo che avrebbe manipolato i bambini per allontanarli dal padre e che li avrebbe fatti ammalare di PAS. Che è qua che dice Luisa Betti, dice che anche il semplice buonsenso percepisce che c'è qualcosa che non quadra. Come accusare l'altro genitore di manipolare i ragazzini se il fatto di non difendere i figli da un membro della famiglia abusante o violento può delinearsi come un reato? Cioè quasi dice, una madre come la fa la sbaglia, nel senso che se vuole difendere nel caso in cui il padre sia violento, aggressivo o abusante nei confronti del bambino, una madre che vuole difendere il bambino dal padre, quindi allontanarlo, può essere accusata di affettare i suoi bambini con la PAS. Dall'altro lato però è un reato anche il fatto di non proteggerli dall'abuso, quindi diciamo che appunto c'è qualcosa che non quadra, è una questione tutta politica, no? Del fatto che si continua a sminuire la violenza contro le donne, nonostante appunto sui giornali ogni tanto i politici dicano che bisogna affrontare questo problema. Sì, tra l'altro c'è anche il fatto che comunque le associazioni dei padri separati hanno costituito una vera e propria lobby, si utilizzano anche avvocati di studi legali, utilizzano anche consulenti tecnici di parte che sono eminenti professori, che quindi diciamo ciurlano nel manico rispetto a questa situazione, perché ovviamente dietro tutto ciò c'è anche il business delle consulenze tecniche, e quindi ovviamente ci sono anche interessi economici. Tutti questi personaggi, eminenti professori che appunto riconoscono e cercano in qualche modo di dare validità scientifica a questa sindrome, che validità scientifica non ha e non avrà mai. Tra l'altro Il disegno di legge che abbiamo richiamato prima, il 957, contiene non soltanto introduce, cerca di introdurre la PAS, mentre nega completamente l'introduzione di concetti validati scientificamente come la violenza intrafamiliare, la violenza assistita, l'alienazione parentale, che è cosa ben diversa dalla sindrome dell'alienazione parentale, l'eludere per esempio l'obbligo di visita o di mantenimento, e dall'altra addirittura nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca i figli, quindi la prole, senza il consenso scritto dell'altro genitore, il giudice può disporre il rientro immediato dei figli ed eventualmente valutare anche il risarcimento e valutare il comportamento del genitore che si è allontanato ai fini dell'affidamento. Perché altro concetto assurdo che introduce questo decreto non è l'affidamento a un solo genitore, ma è l'esclusione dall'affidamento di un genitore. Quindi sostanzialmente il giudice può dire: tu madre ti sei allontanata e quindi io stabilisco l'affidamento al padre, che invece ha avuto un comportamento corretto. Questo è assurdo, ed è assurdo perché nei casi di violenza intrafamiliare quasi sempre la donna si allontana alla fine dal domicilio e porta con sé i propri figli legittimamente, perché esercita i propri poteri di madre, quindi deve intervenire per evitare che i figli siano ancora esposti alla violenza che subisce lei o che a volte subiscono anche i figli direttamente. Facciamo un piccolo stacco musicale. Bene, torniamo e andiamo in chiusura. La PAS non esiste. La PAS è una sindrome inventata, totalmente infondata, è una sindrome molto molto pericolosa, è sessista perché comunque colpisce le donne e colpisce soprattutto e viola i diritti dei minori a una vita libera da ogni forma di violenza e soprattutto nei casi di violenza domestica espone la donna e i figli ad un incremento della violenza da parte del coniuge, proprio appunto per questa costrizione a gestire in modo condiviso l'affidamento anche in situazioni in cui non è praticabile. E chiudiamo in modo positivo. Sono stata colpita da sindrome di alienazione di Gardner. Ringraziamo la nostra consulente toscana. No, io volevo. Io volevo, diciamo, chiudere questa trasmissione con dei consigli. Cioè, cosa fare nel caso in cui appunto ci sia una donna vittima di violenza che in sede di tribunale dei minori incappa in questa possibilità di essere accusata di iniettare come se fosse un veleno la PAS sui suoi figli? Sì, innanzitutto consigli per l'uso. Innanzitutto bisogna lasciare traccia della violenza che si subisce, quindi bisogna appoggiarsi alla rete dei servizi antiviolenza, bisogna assolutamente lasciare traccia anche della volontà di far vedere il proprio figlio e quindi del fatto che il fatto che non li veda non dipenda da una mancanza di volontà ma da un bisogno di protezione, quindi mandare dei telegrammi dove si manifesta la volontà anche di far accompagnare ma l'impossibilità a praticarla, appoggiarsi ai servizi antiviolenza e quindi da qui implementare gli spazi neutri che sono appunto quei luoghi protetti dove il bambino può eventualmente incontrare il proprio padre e il proprio padre essere osservato nella relazione con il bambino e quindi soprattutto non muoversi da sole, perché comunque da situazioni di violenza non se ne può uscire se non si forma e non si una rete attorno a sé. E noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e la prossima puntata sarà la prima settimana di giugno, che non so la data precisa, però diciamo che questa volta insomma siamo slittata alla seconda settimana con piacere, perché nella prima settimana di maggio abbiamo avuto qui al martedì autogestito da femministe e lesbiche la possibilità di ospitare delle compagne francesi che venivano in quei giorni e che ci hanno parlato della loro libreria di donne insieme alle compagne anche di Tuba, quindi siamo state molto contente di lasciare il nostro spazio a loro. A giugno invece ritorneremo sempre il primo martedì del mese. Ringrazio anch'io la nostra consulente Francesca. Grazie a voi. Dalla quinta ora, da Five e Franca è tutto. Ciao. Ciao.